Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, partiamo subito dalle borse. Scusatemi, e chiedo subito scusa per le mie cattive condizioni di salute. Dicevo, partiamo subito dalle borse. Meno 2,20% in questo momento Milano, nettamente più in calo rispetto a tutte le altre borse europee. Francoforte perde solo lo 0,36%, Londra lo 0,18%, Parigi meno 1%. Che cosa è successo? Beh, il combinato disposto di alcune cose, in primo luogo il fatto che siano circolate voci, tra l'altro non commentate, non smentite, ma non commentate, di un taglio del debito italiano, del voto sul debito italiano da parte dell'agenzia di rating Moody's, che ripeto non ha voluto commentare queste voci, ma la reazione in borsa si è vista subito. Lo spread italiano è a 325 punti. E poi però anche altre tensioni che arrivano dalla Spagna, perché il gruppo spagnolo Bankia, quello che è il risultato della fusione di varie casse di risparmio in Spagna con estrema difficoltà, un gruppo salvato diciamo dallo Stato, è crollato del 44%, vicinissimo al livello stabilito dal fondo di ristrutturazione FROB, che ha tagliato l'attuale valore dell'azione di Bankia di 2 euro fino a 0,01 euro, e una decisione che tra l'altro diluirà ulteriormente i 400.000 azionisti del gruppo nella conversione delle obbligazioni di questo piano. Insomma, devo dire, è chiaro che si guarda la Spagna, si guarda Cipro, perché su Cipro l'accordo messo a punto nella notte tra Bruxelles e il Fondo Monetario, ma anche la Banca Centrale Europea e Cipro, prevede in cambio di un aiuto da 10 miliardi di euro da parte dell'Unione Europea il drastico ridimensionamento del settore bancario dell'isola. Praticamente verrà chiusa la seconda banca del paese, la Laiki Bank, che sarà divisa in una bad bank, una parte diciamo con i debiti e una parte buona, e quindi scomparirà. Gli asset buoni, quindi la parte che si può salvare, confluirà nella Bank of Cyprus, così come la liquidità di emergenza della Banca Centrale Europea, che dovrà essere poi restituita. I depositi sotto i 100.000 euro della Laiki saranno garantiti. A essere duramente colpiti saranno i detentori di azioni e obbligazioni della banca e i correntisti con depositi superiori ai 100.000 euro, per un ammontare di 4 miliardi e 200 milioni di euro. La Bank of Cyprus, invece, la prima banca del paese, non scomparirà, ma anche in questa banca i depositi superiori ai 100.000 euro subiranno perdite importanti. Le altre banche invece non saranno toccate dai provvedimenti. Ora io voglio dire una cosa, un conto è far pagare gli azionisti. Uno può anche capire il principio: se tu sei un azionista di una banca, la banca è stata mal gestita, ha tutte queste passività, la facciamo pagare gli azionisti e va boh. Ma io dico, che senso ha farla pagare ai correntisti? Non mi interessa in questo caso se siano miliardari russi o pensionati ciprioti che hanno depositato 150.000 euro in banca. Dico semplicemente che è il principio per cui, se una banca è mal gestita o fa degli errori, la devono pagare non solo gli azionisti, che in quanto azionisti uno potrebbe dire in via di principio, anche se sappiamo che poi i piccoli azionisti non hanno nessun potere, ma insomma in via di principio partecipano al rischio di impresa. Ma perché i correntisti? Cioè, qual è la responsabilità dei correntisti? Questo non lo riesco veramente a capire. Fatto sta che, secondo il mitico ormai presidente dell'Eurogruppo Heroen Dijsselbloem, che si sta rivelando, pur essendo olandese, un falco tedesco come definizione, il salvataggio di Cipro con la partecipazione degli investitori, ma anche dei titolari di depositi bancari, alla ristrutturazione delle banche, rappresenta, sentite un po', un nuovo modello su come gestire i problemi del sistema bancario in Europa. Peccato che un modello simile non sia stato applicato, lo ricordo, a Dijsselbloem nel caso di Commerzbank in Germania, salvata grazie agli aiuti di Stato, ma nessuno ha chiesto ai correntisti di Commerzbank di avere un taglio del genere, cioè non si era mai ipotizzato. E soprattutto, a mio avviso, dire che questo è un modello per gestire i problemi del sistema bancario che si dovessero presentare in Europa nell'area euro è, a mio avviso, una follia. Se non è una follia, è quantomeno una gufata. E quindi l'ipotesi di che Moody's possa tagliare il voto al debito italiano, quello che è successo a Bankia in Spagna, le dichiarazioni sul fatto che Cipro possa rappresentare un modello, cioè se una banca è mal gestita la facciamo pagare non solo agli azionisti e agli obbligazionisti ma anche ai correntisti, ripeto, a me sembra una follia questa di... cioè dire che è un modello soprattutto, mi conto dire misura estrema, non sapevamo cosa fare, dire che addirittura è un modello per l'area euro, sembra un'operazione da tafazzi incredibile. Comunque... porta poi non solo la Spagna ma anche l'Italia a perdere molto in borsa e non è un caso che perdano soprattutto le banche. Il Banco Popolare perde il 5,80%, Intesa San Paolo il 5,60%, Unicredito il 4,90%, Mediobanca il 4,5%, Ubibanca perde il 3,90%, Generali 2,80%, ancora Mediaset, che non c'entra nulla con le banche ovviamente, meno 4%, Finmeccanica meno 3,30%, Telecom meno 3%, per cento, Enel meno 2,80, Fiat meno 2,70%, il Monte dei Paschi perde il 2,1%. Chi si salva oggi? Parmalat più 2%, Tenaris più 1,40%, Steamark Electronics più 1,20% come Diasorin, Azimut più 1%, A2A mezzo punto percentuale di rialzo come Tolz. Le esportazioni, qui restiamo in Europa, le esportazioni europee verso i paesi fuori dall'Unione Europea hanno segnato una caduta del 5,7%. Questo è il dato Istat che ha rilevato anche un calo delle importazioni. Però le vendite all'estero risultano ancora positive, questo va detto, anche se in rallentamento. Le destinazioni su cui riusciamo a esportare di più sono la Russia più 16%, la Turchia più 0,4%, i paesi del petrolio, i paesi dell'OPEC più 14%, negativa invece la Cina meno 9%, il Giappone bene più 7,5%, l'India meno 7%. Preciso che di finanza e di atteggiamenti da finanza, di quello che pensano gli investitori stranieri del nostro paese, parleremo tra circa mezz'ora con Davide Serra, che per chi non lo sapesse, il fondatore del fondo Algebris, noto alle cronache sia per l'attacco che fece alla gestione delle generali di Bernheim dicendo che i vertici erano troppo vecchi, ma sia soprattutto l'anno scorso per aver appoggiato in maniera molto esplicita, molto trasparente, la candidatura alle primarie di Matteo Renzi e averlo fatto incontrare con la comunità finanziaria milanese con uno strascico di numerose polemiche, ricorderete. E ci interesserà capire con lui sia qual è la valutazione della situazione italiana, fermo restando appunto le sue posizioni ben note, ma anche quanto investe in Europa, in Italia e qual è il ragionamento che sente fare, avendo lui sede a Londra, sugli investimenti in Italia. Che la situazione sia difficile nei consumi italiani lo dimostrano anche vari dati che noi raccontiamo ogni giorno. Quello di oggi, dati non statistici ma dati, se vogliamo, più empirici, chiamiamoli così. Lo dico perché oggi l'IKEA ha registrato per la prima volta dopo 20 anni di presenza in Italia il primo fatturato in calo. Nel 2012 infatti l'IKEA ha fatturato il 2,6% in meno, a 1 miliardo e 600 milioni di euro. E dice l'amministratore delegato di IKEA Italia, Lars Peterson, la pressione sui consumi derivante dalla crisi si fa sentire anche per noi. Ora, ovviamente, quando la pressione sui consumi, della crisi, sui consumi si fa sentire anche su quello che potremmo chiamare un low cost, perché l'IKEA, insomma, un po' questo è, vuol dire dare l'idea di quanto la situazione sia difficile. Ripeto, per la prima volta in 20 anni l'IKEA ha chiuso nel 2012 un fatturato in Italia in calo. La buona notizia di oggi riguarda invece la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e anche il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, il CNIT. Perché? Perché assieme al colosso Ericsson hanno le tecnologie messe a disposizione dalla Sant'Anna, appunto, e dal Consorzio Nazionale, hanno consentito oggi di battere il nuovo record mondiale di velocità su internet. Praticamente il test è avvenuto in Australia con il gestore Telstra. Nel collegamento fra Sydney e Melbourne hanno raggiunto la velocità su internet di 1.000 miliardi di bit al secondo, un tetrabit. Questa è la buona notizia che riguarda l'Italia, perché appunto è coinvolto a pieno titolo anche la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 349-238-6666 per i vostri sms. E poi, come sempre, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema di oggi, chiaramente, il racconto, la cronaca anche di come si sta sviluppando la giornata delle consultazioni, le dichiarazioni. Abbiamo letto sui giornali ieri poi la prima parte delle consultazioni che ha visto protagonista il presidente di Confindustria, tra gli altri Giorgio Squinzi, che ha detto: attenzione, siamo vicinissimi alla fine, non c'è rimasto tempo, occorre avere un governo stabile in grado di governare e che faccia appello a tutti gli uomini di buona volontà. Ma parleremo anche delle novità che arrivano dall'Europa, perché l'Europa sull'accordo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese italiane oggi ha detto: attenzione, in questo modo salirà il deficit e non uscirete dalla situazione di osservati speciali. La cosa ci ha molto sorpreso, perché proprio 2 settimane fa commentavamo l'accordo a livello europeo tra il vicepresidente Tajani e il commissario europeo Olli Rehn, che permetteva all'Italia di non contabilizzare in senso stretto come deficit quei soldi, sono almeno 70 miliardi. Il governo uscente ne ha promessi 20 quest'anno e 20 l'anno prossimo, questi soldi che lo Stato darà per servizi e beni già ricevuti. Anche di questo parleremo, dicevo, però prima di tutto la cronaca delle consultazioni. E se ieri è intervenuto Squinzi, il presidente Confindustria, dicendo: serve un governo, non c'è tempo, siamo vicini alla fine, oggi devo dire l'intervento dopo l'incontro con Bersani di Susanna Camusso, beh, a me è sembrato molto simile nei toni e nei contenuti, anche perché la stessa Camusso, oltre a chiedere che venga levata l'IMU sulla prima casa fino a 1.000 euro, ha anche detto: attenzione, occorre sbloccare subito il pagamento dei debiti che lo Stato vanta nei confronti delle imprese italiane, e serve che il cambiamento parta dalle imprese e dal lavoro. Se non si frena il progressivo degrado e tracollo della situazione, anche parlare molto di riforme rischia di essere non particolarmente utile. A nostro avviso serve un governo che indichi alcuni cambiamenti fondamentali anche in termini di emergenza e che queste rappresentino l'inversione di tendenza. Pagamento dei crediti alle imprese, perché la risposta che ha dato il governo dimissionario non rappresenta né l'iniezione effettiva di liquidità per impedire la chiusura delle imprese né la risposta corretta a quanto dice la Commissione europea. Abbiamo indicato il tema ammortizzatori esodati come coda di una situazione drammatica, ma della necessità di dare risposte alle persone. E abbiamo indicato la somma delle scadenze in arrivo a giugno di Tares, IMU e aumento dell'IVA come una possibile miccia che va disinnescata. La nostra ipotesi è quella che bisogna innanzitutto togliere il pagamento dell'IMU sulla prima casa fino a un valore di 1.000 euro. Così il segretario appunto della CGIL Susanna Camusso. Oggi hanno incontrato Bersani anche quello della CISL Raffaele Bonanni, che ha detto: no, un nuovo voto, bisogna fare un governo a tutti i costi. E anche quello della UIL Angeletti, che ha detto: occorre subito un segnale contro l'emergenza economica. E poi a rappresentare le categorie produttive il presidente di Rete Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli, sulla falsa riga, devo dire, di quello che ha detto ieri Squinzi: le imprese sono al collasso, c'è l'assoluta urgenza di dare subito un governo al paese. Abbiamo ribadito al presidente incaricato Pier Luigi Bersani l'assoluta necessità ed urgenza di dare subito un governo al paese. perché questo viene richiesto dalla drammatica situazione economica e sociale che il Paese sta attraversando, e lo richiedono anche le nostre imprese che sono al collasso. E in tutto questo, cioè impresa al collasso, vicina alla fine, come ha detto ieri Squinzi, o al collasso, come ha detto oggi Sangalli, e in tutto questo poi le cose si complicano, perché da Bruxelles arriva una indicazione non chiarissima, almeno da come l'abbiamo letta noi, sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Però vorrei ricordare che oggi di imprese, del mondo agricolo ma non solo, ci stiamo occupando da questa mattina per il Radio Day dedicato all'alluvione in Maremma e in Toscana in generale. Il popolo degli alluvionati della Maremma la sta raccontando da questa mattina la nostra Laura Bettini, perché nonostante la firma del decreto che sblocca i fondi per alluvione, firma da parte del governo Monti, il popolo degli alluvionati è ancora in rivolta. Questa mattina i cittadini di Albina e Marsigliana si sono trovati nella sede di Conserva Italia, una delle aziende distrutte, un migliaio di partecipanti, e poi sono spostati verso Laura Bettini, buonasera. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. E grazie per il lavoro che stai svolgendo oggi. Allora, per ricordare a tutti, tu l'hai raccontata oggi lungo tutti i nostri GR con il Radio Day, come mai sono stati già assegnati 13 milioni di euro sui 24 milioni promessi? Però come mai, dopo l'annuncio del decreto di sabato, ancora è rivolta e protesta? Beh, prima di tutto per un motivo che sappiamo bene, avendo già seguito le vicende dei terremotati dell'Emilia, cioè il fatto di avere firmato questo decreto non significa che i soldi sono disponibili, perché poi ci sarà tutta una trafila da seguire, poi ci saranno questioni burocratiche non semplici da risolvere, e quindi la vicenda sarà ancora lunga. Questi soldi oltretutto sono destinati a opere pubbliche, poi verrà scorporata una parte da destinarsi a cittadini e imprese, resta del tutto esclusa l'agricoltura, che qua invece è una fetta importantissima dell'economia, e quindi questo è uno dei motivi per cui la manifestazione è stata riconfermata, e perché poi bisogna mettere assolutamente in sicurezza il territorio per evitare che si ripeta una situazione del genere. Ormai ovviamente quello che è accaduto ha rotto tutti gli argini possibili, e quindi una nuova esondazione è possibile, sarebbe altrettanto grave. E da lì appunto la protesta, che adesso è terminata, Laura? La protesta è terminata, ci sono stati degli strascichi piuttosto lunghi sulla Aurelia, io ho visto colonne di camion per chilometri diverse ore dopo, però adesso è tutto tornato nei ranghi, per così dire. No, ma è importante quello che tu ci chiarivi, perché appunto poi i tempi sono fondamentali. Le aziende più in ginocchio, se ho ben capito, sono tutte le imprese agricole? Sì, sono sicuramente quelle disastrate, è un panorama, Sebastiano, incredibile quello che c'è qui intorno. Le campagne sono come le risaie del Piemonte, ma siamo in Toscana e le produzioni sono altre, dovrebbero essere campi di pomodori. E quindi il fatto che la regione toscana abbia destinato 6 milioni per il sostegno delle imprese agricole, insomma, sono state messe a bando queste risorse. Se ben ricordo però, Laura, i termini per la presentazione scadono oggi, no? Il 25 marzo? Sì. E poi sono comunque, sono 6 milioni che la regione ha tirato fuori in qualche modo, non coprono assolutamente i danni che sono stati riscontrati, si parla di decine di milioni di euro, e soprattutto bisogna ricordarsi che in agricoltura i tempi sono lunghi, questi contadini, se incasseranno qualcosa, se il tempo sarà clemente, sarà tra un anno e mezzo. Raccolto di quest'anno è andato. In bocca al lupo, anche se mi rendo conto che sia del tutto insufficiente come augurio, a tutti i contadini, le imprese agricole e in generale gli imprenditori colpiti dall'alluvione. Grazie alla nostra Laura Bettini, che continuerà a raccontare anche poi nell'appuntamento alle 19 lo stato dell'arte, ahimè, ancora incompleto. Grazie Laura. A voi, a risentirci. E nel frattempo, dicevo, sembrava tutto molto chiaro, perlomeno a chi vi parla, l'accordo raggiunto a Bruxelles 2 settimane fa, ce lo ha illustrato in diretta il vicepresidente della Commissione Europea Tajani, Antonio Tajani, per cui in accordo col commissario europeo Olli Rehn, commissario all'economia, si era deciso che l'Italia potesse ripagare i debiti che ha nei confronti delle imprese, ripeto, sono 70 miliardi quelli stimati da Confindustria, potesse ripagare questi debiti senza vedere aumentare il deficit per quello che riguarda i parametri di Maastricht, cioè senza, diciamo, avere un deficit che sale ed essere puniti per questo. L'accordo era di essere più flessibili nel calcolare questo tipo di deficit, quindi visto che lo Stato sta ripagando per forniture e servizi già resi. In realtà poi oggi è arrivata una dichiarazione dell'Unione Europea un po' singolare, perché il pagamento di questi 40 miliardi di debiti arretrati, quello che dovrebbe venire 20 miliardi nel 2013, 20 miliardi nel 2014, renderebbe, dicono fonti della Commissione Europea, renderebbe per l'Italia più difficile la chiusura della procedura per deficit eccessivo aperta a Bruxelles. Io non ci sto capendo più niente a questo punto e chiedo lumi al corrispondente di Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles, Antonio Poglio Sanibeni. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, io avevo capito questo, che l'accordo Tajani-Ren andasse nella direzione di dire: se ripagherete le imprese, quindi se aumenterete il deficit poni di 20 miliardi perché ripagate le imprese, noi non ve lo conteggeremo in senso stretto come deficit, come se tu spendi più di quello che incassi normalmente, perché capiamo ci sarà una flessibilità, che sono pagamenti che prima o poi devi ridare a queste imprese. Che cosa è cambiato, o ho capito male io? Non è cambiato nulla. La Commissione ha sempre detto che di quel beneficio, di quella flessibilità sui pagamenti oppure sugli investimenti pubblici, possono godere soltanto i paesi che hanno un deficit in rapporto al prodotto lordo pari o inferiore al 3%. Il problema del 2012 non è in discussione, perché nel 2012 l'Italia dovrebbe chiudere con un deficit a quota 2,9%. Nel 2013, cioè quest'anno, dovrebbe chiudere senza il pagamento alle pubbliche amministrazioni al 2,4, con il pagamento di 20 miliardi al 2,9. La Commissione, che non ha fatto una dichiarazione ufficiale, insomma ha fatto slittare la notizia, ha fatto trapelare un po' così questa preoccupazione, per cui il 2,9% è diciamo, a un piccolo tiro al 0,1 dal 3%, a 0,2 dal 3,1%, siccome si valuta in termini nominali l'uscita dalla procedura, se fosse poi alla fine dei conti, e lo si saprà in autunno, non lo si saprà a maggio, se la Commissione stimerà che invece il deficit italiano sarà nel 2013 al 3,1%, la procedura non si può chiudere. Il punto è questo: Bruxelles si può trovare in una situazione in cui in primavera, a metà maggio o anche a metà giugno, chiude la procedura per il 2012, ma la riapre magari per sospetto deficit oltre il 3% in autunno, e di qui l'imbarazzo, anche perché, concludo, le regole dicono che il 2012 deve essere l'anno precedente, deve essere sotto il 3%, ma anche nei due anni successivi, di qui l'incertezza. Sì, devo dire, ho capito il ragionamento che fa Bruxelles, non è che chiarifichi molto, nel senso che o non ne tieni conto e dici va bene, guardiamo solo il deficit che tu generi perché hai speso più di quello che hai incassato quest'anno, e allora si possono ripagare le piccole imprese, piccole e medie imprese, perché sennò in questo modo tutto un po' si complica, mi sembra di capire, Antonio, perché poi... Certamente si complica, cioè... è chiaro che questa visione, diciamo, nominalistica è in netta contraddizione appunto, con l'approccio al deficit in termini strutturali e con una logica di flessibilità. Io personalmente penso che sarà difficile che si trovino a non poter chiudere la procedura sul 2012, a meno che non abbiano in tasca delle stime qui a Bruxelles che dicano: no, guardate, il vostro deficit quest'anno finirà ben oltre il 3%, o hanno questo argomento. Ma se non ce l'hanno, è difficile la procedura. Esatto, obiettare. Secondo me è una verità, valutato così, secondo me. Ecco, mi dai un commento. Il governo italiano, in una fase in cui non c'è ancora un governo, a stare molto attenti sul deficit. Vabbè. Perché rischierebbero di non chiudere, di non avere chiusa la procedura sul deficit. Ecco, mi dai un commento. Mi dai un commento in un minuto invece a questa dichiarazione a cui noi abbiamo attribuito il nostro gufo, del mitico presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, che dice: il salvataggio di Cipro, quindi facendo un prelevo, e penalizzando non solo gli azionisti ma gli obbligazionisti della banca che verrà chiusa, la Laiki Bank, ma anche i correntisti. Io ripeto, non capisco che responsabilità abbia un correntista sulla gestione della banca. Dissemblea ha detto, beh, è un modello per l'area euro per eventuali prossime ristrutturazioni di banche. Secondo me queste frasi sono frasi devastanti perché creano il panico. Comunque vorrei sentire la tua. Sì, sono devastanti nel momento in cui non si fa differenza fra i depositanti, tra i correntisti e gli obbligazionisti e azionisti. Questi ultimi due, che sono così i creditori delle banche o i proprietari delle banche, è evidente che devono dare un contributo nel caso di gestione ordinata di un fallimento. Tant'è vero che quando una banca prende un aiuto di Stato per ristrutturarsi, dopo 6 mesi presenta un piano di ristrutturazione e lì arriva la stangata per i proprietari, innanzitutto, se non vogliamo che paghino i contribuenti. Non fare differenza fra depositante azionisti / obbligazionisti è molto, molto pericoloso. Nel caso di Cipro però i depositanti sappiamo che non sono che troviamo in altri paesi. Certo, però Dissemblea lo indica come modello per prossime ristrutturazioni di eventuali ristrutturazioni di banche europee. Ho fatto solo notare che né Commerzbank né Ipo Real Estate in Germania hanno mai toccato o fatto pagare la ristrutturazione ai correntisti, hanno chiesto aiuti dello Stato, ma nessuno ha toccato i correntisti, per cui a me queste dichiarazioni sembrano veramente una follia. Ma Dissemblea ci ha abituato a dichiarazioni in qualche modo, spero che ne capisca tutta la portata, mettiamola così. Grazie Antonio Poglio Salimbeni in collegamento con noi da Bruxelles. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alla luce di quello che abbiamo detto, cioè l'accordo, la proposta su Cipro, le tensioni in Spagna su Bankia, Moody's, voci che Moody's potrebbe abbassare il voto all'Italia e dichiarazioni, ripeto, a mio avviso non so come, cioè, se ci crede, a mio avviso è folle, se non ci crede è incompetente. Del presidente dell'Eurogruppo Dissemblea, che ha detto il modello usato per Cipro potrebbe essere il modello per prossime crisi bancarie in Europa, cioè che cosa? Il prelievo forzoso sui conti correnti. Insomma, la borsa come va? Come ha chiuso? Ha chiuso con un meno 2,50%, Milano la peggiore, Francoforte ha perso solo lo 0,50%, Parigi l'1,12%, Londra lo 0,15%, e allora borsa sia. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, quanto hanno pesato le dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo Dissemblea? Ma hanno pesato, anche se ha pesato di più questi rumor che si sono diffusi a metà mattina su un possibile downgrade di Moody's, perché da quel momento che Piazza Affari ha iniziato ad andare molto male, e poi ha trascinato con sé praticamente tutte le altre borse, compresa Madrid, che fino a quel momento era stata comunque positiva in linea con i rialzi delle altre borse europee che stavano festeggiando questa intesa di massima raggiunta nella notte su Cipro. Quando invece hanno iniziato a diffondersi queste voci su Moody's, Milano è stata la prima a risentirne, perché ovviamente si parla di un taglio del rating del debito italiano, e a ruota sono andate giù poi tutte le altre piazze continentali. Certo, poi c'è una somma di ragioni, sì, che spiegano, sì, la giornata di oggi, sì, appunto come le dichiarazioni che citavi tu prima, il fatto che l'asta del CTZ non è andata così bene come si poteva sperare, e anche le difficoltà politiche che comunque su Piazza Affari pesano. Sì, però quelle c'erano anche venerdì, no? Quindi certo, sono d'accordo con te. Il problema è vero che qua, se tu inizi a dire che Cipro è un modello e poi Moody's che potrebbe abbassare il rating, Bankia perde il 44%, cioè è chiaro che poi al fine non lo va a vendere. Comunque le banche le archiviamo così: Intesa San Paolo meno 6,20, Banco Popolare meno 5,90, Unicredito meno 5,80, Mediobanca meno 5,30, Ubibanca meno 4,80, Generali meno 3,35, Monte dei Paschi meno 2,60%. Mediaset all'indomani dei conti meno 4,70%, sì, e invece Parmalat positivo più 1,70%. Sì, Mediaset deve dare i conti domani, c'è un'attesa per un rosso di 45 milioni, almeno questo dovrebbe essere il consenso degli analisti. Fa impressione perché per Mediaset si tratterebbe del primo rosso della sua storia da quando è stata quotata nel 1996 e domani appunto sveleranno i conti, in parte che siano in rosso è cosa abbastanza assodata. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi, che è vicepresidente della società, la scorsa settimana ha fatto un'intervista in cui ha ammesso questo rosso, ma ha anche detto che ci sono delle strategie per il rilancio e in particolare un taglio significativo dei costi nell'ordine dei 450 milioni. Comunque insomma oggi il titolo ha pagato in modo pesante a Piazza Affari. Per quello che riguarda Parmalat, che oggi ha guadagnato l'1,69%, c'è un po' di attesa per la presentazione dei risultati diffusi la scorsa settimana, che la presentazione sarà fatta domani dal management. È anche vero che il titolo aveva perso circa il 5% per la delusione rispetto al fatto che la società non darà un maxi dividendo come aveva fatto invece lo scorso anno, e poi c'è sempre da sottolineare il fatto che i titoli come Parmalat o anche di Assorin, che ha guadagnato lo 0,85%, sono considerati dei titoli difensivi perché sono attivi in comparti come l'alimentare o il farmaceutico, meno esposti alla crisi. Chiudiamo con un esordio, perché ha esordito Mondo TV France. Allora, il titolo ha fatto più 5,34%, secondo titolo dopo Gas Plus più 6,36%, peggior titolo di Mail Group meno 7,70%, Cell Therapeutics meno 7,50% e Telecom Italia Media sulle ordinarie, che ha fatto meno 6,30%. Mondo TV rapidamente. Sì, Mondo TV ha fatto più 5,34%, l'ha controllata Mondo TV France più 4,05%. Proprio Mondo TV France oggi debuttava sul mercato alternativo dei capitali di borsa italiana, sull'AIM, insomma un debutto positivo per questa matricola. Allora, giustamente mi fanno notare gli ascoltatori, io ringrazio tanto Guido Maurino, Radio Colle Sole 24 Ore, che visto che è olandese, presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che se ne è uscito con questa dichiarazione, a mio avviso, delirante, e cioè che quello di Cipro è un modello, potrebbe essere un modello da seguire anche in altre crisi bancarie europee. Io dicevo, perché non l'hanno seguito con Commerzbank, cioè prelevando forzosamente i correntisti tedeschi di Commerzbank, 14 miliardi di euro l'aiuto che lo Stato tedesco ha dato a Commerzbank quando era in difficoltà, ma anche, visto che è olandese, anche nel caso del gruppo ING, che ha ricevuto 10 miliardi di aiuti dal Stato olandese, nessuno è venuto in mente di tassare, di prelevare forzosamente i conti correnti di ING. Allora, ci vogliamo mettere d'accordo su questo? Non è che ci sono, come nella fattoria di Orwell, le banche sono tutte uguali, ma alcune sono più uguali di altre, eh? O per tutti o per nessuno. E allora, lasciata Piazza Affari, torniamo, però continuiamo anzi a parlare di mercati finanziari e del modo in cui stanno influenzando le decisioni dei singoli paesi, a cominciare dall'Italia, ma anche da come veniamo visti da fuori, da chi deve fare investimenti da fuori. Lo facciamo con un finanziere italiano molto conosciuto anche per le posizioni politiche che ha preso e che opera dall'estero. E allora ne parliamo con chi tutti i giorni deve fare scelte di investimento che riguardano anche il nostro paese, un finanziere che è abbastanza conosciuto in Italia non solo per la sua attività precipua, quindi quella di investire o disinvestire, ma anche perché ha avuto nel passato una posizione da un lato critica con le gerarchie italiane, dall'altro anche molto esplicita, diciamo in una specie di endorsement politico. Mi riferisco a David Serra, che è finanziere, ex analista di Morgan Stanley. Nel 2006 ha fondato a Londra l'Hedge Fund, o meglio una boutique di fondi, tra cui ci sono anche dei fondi hedge, quindi più speculativi, che si chiama Gabris, di cui è attualmente il numero uno. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Dunque, poi arriveremo anche a altre valutazioni più sulla vostra attività. Voi avete sei fondi, se non ricordo male, di cui uno è hedge, quindi uno è altamente speculativo, mentre gli altri sono fondi che investono però in attività strettamente di carattere finanziario, quindi banche, immagino assicurazioni, finanziarie. Però, visto che lei è basato a Londra, vorrei capire in questo momento la percezione che gli investitori hanno della situazione politica italiana. Abbiamo letto di tutto in questi giorni, in queste settimane dall'Economist, dal Financial Times e quant'altro, però obiettivamente non è che lo stia chiamando, il mercato è abbastanza tranquillo, cioè, notiamo che lo spread si muove più su Cipro che sull'Italia, che la borsa italiana tutto sommato segue le dinamiche delle altre borse europee. Allora la domanda è, ripeto, senza tirarmela addosso e chiamarla, sono solo la finestra oppure comunque si ritiene che la situazione verrà comunque gestita in Italia, o dobbiamo attenderci, o è una calma prima di un'eventuale tempesta? Dunque, la prima reazione è una reazione di delusione, perché l'Italia di fatto è riuscita a dare un voto che la rende quasi ingovernabile a breve, e quindi mentre prima c'era una grande aspettativa di avere un governo che avrebbe finalmente fatto queste riforme strutturali, che io sento parlare da quando ero all'asilo quasi, che ormai sono diventate una presa in giro, la gente si aspettava, il mercato dicendo bene, l'Italia ha capito cosa succede, ha visto che se non ti riformi diventi la Grecia, la Spagna è subito dietro e se noi non ci diamo una mossa siamo noi i prossimi. Sfortunatamente oggi l'ingovernabilità, quindi non avere un governo, non poter avere una maggioranza, questo aumenta l'ansia. Cos'è che compensa quest'ansia? Quindi perché i mercati per ora non reagiscono? Perché comunque c'è stato, il governo italiano ha firmato una legge di stabilità. Chiunque vada lì a governare non può aumentare le spese. Il pareggio di bilancio è ormai nella Costituzione e quindi fondamentalmente quello che il mercato definisce la roberia degli ultimi anni, dove tutti spendevano 3, 4, 5% più del conto economico, no? Più di quanto si guadagnava ogni anno, non può più essere fatto. E quindi ciò che si aspetta è vedere se questo bisogno di cambiamento, di richiesta, che sicuramente è stato espresso dal voto, come dire, a sorpresa del Movimento 5 Stelle, a un certo punto la gente, gli italiani hanno capito che così non si può andare, bisogna riformare. Quindi il mercato guarda, si è capito la necessità di riformare, verrà implementata sì o no? Ecco, sempre dal punto di vista di chi investe, anche se è noto più che lei, dottor Serra, ha avuto, come ricordavo prima, anche ed è, va benissimo in democrazia, nei paesi anglosassoni si fa da sempre, ha dato il suo appoggio a Matteo Renzi al tempo delle primarie, ha fatto incontrare la comunità finanziaria di Milano, molte critiche, non voglio tornare su questo, accuse perché c'era uno dei suoi fondi domiciliato alle Cayman, la finanza Hedge incontra Matteo Renzi e quant'altro, però dal punto di vista dei mercati sarebbe più conveniente andare a elezioni secondo lei, o quello che si chiede è una stabilità ad ogni costo? Cioè lei nel momento in cui investe, no, al di là della sua idea, diciamo, chi investe ciò che vuole è che l'Italia torni a essere competitiva. Al mercato e agli investitori non ne frega nulla di chi comanda, ciò che conta è cosa si fa. Quindi guarda, le spiego in maniera molto semplice. Oggi un imprenditore, per creare un'azienda in Italia, per dare dei posti di lavoro in Italia, come si suol dire, cosa deve fare? Deve poter avere delle tasse concorrenziali a livello europeo, il costo dell'energia elettrica che sia concorrenziale a livello europeo, avere la velocità amministrativa per poter creare un'azienda in termini anche qui medi. E il dramma cos'è? Lo dico subito. Uno, il costo del personale oggi in Italia con gli oneri sociali è 50% superiore alla media europea. Quindi se lei deve, è come domani, vuole comprare un paio di Nike, costa 50 euro, in Italia costa 75, nessuno se le compra in Italia. Bene, e quindi è già difficile creare posti di lavoro, se un imprenditore costa il 50% in più. Due, i tempi della giustizia sono 3-4 volte più lenti che la giustizia nel resto dell'Europa. Quindi se uno vuole investire in Europa, va in altri paesi. Quindi ciò che il mercato vuole, sono le riforme, diciamo. Non gliene frega nulla, destra, sinistro, alto, basso, bello, brutto, è mi rendi competitivo, puoi competere a livello globale, perché ricordiamoci che ci sono solo 60 milioni di italiani, ma ormai il paese ha 6 miliardi di abitanti, e mentre prima ce n'erano 3 che non competevano, sì, perché erano tagliati fuori dal quadro globale, oggi lo sono, e quindi la pressione continuerà solo ad aumentare. Ecco, su questo però, se non conta se sia destra, sinistra, alto, basso, come dice lei, perché lei era così pro Renzi? Cioè perché lei credeva comunque che sarebbe stato meglio far vincere le primarie, o che avesse vinto le primarie Renzi? Guarda, è molto semplice, perché uno, nel mio lavoro io viaggio, gli ultimi 15 anni ho viaggiato in più di 60-70 paesi, e per mestiere devo incontrare ministri delle finanze, banchieri centrali, primi ministri, e come dire, a un certo punto è come uno che guarda le partite di calcio e segue il campionato in 70-80 paesi. Quando si incontra qualcuno che ha capacità, età, matrice valoriali che ti definiscono un buon giocatore, immediatamente c'è dell'attenzione. E qui cos'è che vedo? È molto semplice. Prenda Cameron in Inghilterra, che ha 46 anni. Obama ne avrà 52, penso. La Merkel sotto i 60. La media dei primi ministri dei paesi che in Australia mi sembra siano 45, quindi i paesi performanti, che sono quelli che vincono, hanno un allenatore, mettiamolo così, come primo ministro, un premier che è tra i 40 e i 55 anni. Da noi si sono presentati 6 premier, il più giovane è 62, 65, 70 e 78. Quindi sono troppo vecchi i nostri leader? Sì, vivono in un mondo che non esiste più. E questo da cosa lo si vede? Lo si vede dal fatto che oggi abbiamo in Italia un numero di leggi fiscali 3 volte superiori alla media europea. Quindi è un incubo per fare dichiarazioni in Italia, ci vuole un fiscalista, perché una persona normale laureata non può fare. E quindi, per concludere questa parte, perché poi vorrei arrivare invece a dove lei sta investendo, c'è bisogno di rinnovamento. Era meglio, cioè, se si fosse candidato Renzi sarebbe stato meglio. Ma guardi, la mia view da investitore e da italiano, per il fatto che ho lasciato l'Italia 20 anni fa, ma c'ho ancora il cuore italiano e lo si sente dalla magari mia grammatica non perfetta, ma il cuore batte Italia, è che se gli italiani avessero votato alle primarie Matteo Renzi, secondo me, visione personale, il PD avrebbe avuto il 35-40%, Berlusconi non si sarebbe candidato, Monti sarebbe andato al Quirinale, avremmo avuto la certezza degli esteri, che c'era Mario Monti, un bravo tecnico super partes a fare il proprio mestiere, e avremmo avuto un ragazzo in gamba giovane con supporto di 1000 sindaci, quindi in grado di attaccare questa macchina amministrativa burocratica che ormai sembra un cancro in Italia, e secondo me era un punto di svolta. E secondo me cosa succede? Se si torna a votare, questa è l'unica soluzione, perché nel qual caso non succedesse, secondo me cosa succede? Questo movimento di protesta, di dire andate tutti a quel posto, con il cosiddetto, no, il Waffen Day, l'ha creato oggi uno dei primi partiti, che non è altro che dire fregatevi. E secondo me a un certo punto, se il voto va solo in protesta, poi cosa succede? Gli investitori scappano, perché il problema è protestare sì, ma per fare cosa? Cioè... No, ma è chiarissima la sua analisi. C'è una classe politica troppo vecchia, anche anagraficamente, che vive in un mondo, come dice lei, che non esiste più. E è stato un errore non avere Renzi come candidato per le conseguenze complessive. E scusi, e Renzi, penso, una cosa intelligente, uno, aveva infatti la riforma, massimo 2 candidature in Parlamento, poi fuori. In tutto il mondo chi entra in politica entra per servire, non per essere servito dal popolo. In Italia a un certo punto essere onorevole vuol dire che il popolo deve servire te. No, guarda che in democrazia è l'opposto. Due, il cercare di togliere persone che sono 20-30 anni, che sono lì, l'Italia da 20 anni che non cresce, sarà normale. Lei ha mai visto una squadra di calcio che per 20 anni perde il campionato e non si cambia né allenatore né giocatore? No, ho capito benissimo, però visto che parla la notizia del giorno, ma secondo lei in questo momento il tentativo di Bersani è anche quello di far fuori Renzi? Ma no, assolutamente, perché sarebbe da suicida. Perché il problema è che le prossime elezioni gli italiani l'età media continuano a diminuirla, perché più giovani vengono a votare. Guarda che io mi ricordo che quando ci sono state le primarie non hanno fatto votare i 16enni e i 17enni. Li ho visti alla Leopolda, dovessi vedere quanti di questi ragazzi erano incacchiati neri. E lei si immagini che il 65% della CGIL sono pensionati, quindi veda lei. Cioè il PD è troppo verso la CGIL, diciamo. Sicuramente non è pro giovani, è pro pensionati, è pro tenere la tutela dei benefici dei vecchi. Io guardo che quando sono uscito dall'università continuano a dire noi questi sono diritti acquisiti, io li definisco dei furti legalizzati. Ma scusi, ma se uno ha lavorato, uno è nato negli anni 40-50, è andato in pensione con l'80-100% di pensione in più di quanto ha versato. Oggi un ragazzo della mia età, nato negli anni 70, va in pensione, prenderà in pensione il 60-70 di quello che ha versato. Ma scusi, ma perché lei deve prendere il doppio, il 30% in meno? Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Due risposte velocissime a chi dice che il mio paragone con i salvataggi delle banche olandesi e tedesche non regge con quello di Cipro, perché né l'Olanda né la Germania hanno mai chiesto soldi all'Europa. È vero, io ho solo detto però che il presidente dell'Eurogruppo, che dice che quello che hanno fatto a Cipro, cioè lascia stare azionisti e obbligazionisti, ma prelevare forzosamente dai conti correnti dei correntisti, che non hanno nessuna responsabilità sul cattivo andamento di una banca, ebbene Dijsselbloem dice che questo è un modello per prossimi salvataggi in Europa. A me sembra una follia, anche perché non si è mai detta una cosa del genere prima. Seconda cosa, visto che il nostro ospite è Davide Serra, è fondatore del fondo Algebris, che sono in realtà 6 fondi, di cui uno hedge, quindi altamente speculativo, io non sono d'accordo con alcune cose che dice Serra e lui non è d'accordo su alcune cose che dico io, ma è anche questo il bello, adesso lo vedremo, anche perché mi sembra che sull'Europa e sull'euro abbiamo idee diverse. Comunque, dottor Serra, tornando sul tema del ricambio generazionale che lei citava prima sulla classe politica, lei però nel 2007 ha fatto una storica battaglia con l'allora numero uno delle generali Antoine Bernheim. Quindi il tema del ricambio riguarda solo la politica, l'età dei leader o anche il mondo bancario, della finanza, dove lei investe direttamente? Allora, io concordo che non è una questione di età, perché ci può essere un... Facciamo sempre l'esempio, diciamo, calcistico. Se sei mona da giovane, sei bravo, mona anche da vecchio. Se sei bravo, se sei in gamba, non importa l'età. Certo. Ciò che conta sono i risultati fatti. Nel caso delle generali era molto semplice. Avevamo un presidente esecutivo che aveva più di 80 anni, si addormentava in assemblea generale e ci parlava in francese. Ecco, per la legislazione italiana parlare in francese in assemblea è illegale e addormentarsi in assemblea vuol dire che fondamentalmente magari è il caso che tu cambi lavoro, ma soprattutto non metteva pressione ai due amministratori delegati, non ne aveva uno, ma ne aveva ben due. Quindi cosa faceva? Un allenatore che non chiedeva al capitano di vincere la partita. Chiaramente bisogna cambiare. Guarda caso cosa è successo quando gli azionisti l'hanno capito, ci ha messo 5 anni, hanno perso l'azione, nel frattempo è passata da 25 a 7, hanno portato uno dei più bravi allenatori giocatori, Mario Greco, hanno un presidente che rappresenta la continuità, Gabriele Galateri, che è una persona, come dire, che fa parte più dei 65 anni, ma è una persona che per 20 anni ha lavorato, è sempre stato coerente, ha portato i suoi risultati, non si è mai trovato condanne penali e fatti i fatti suoi. Quindi il problema cos'è? Che non è una questione di età, è una questione di quello che fai. Ecco, Secondo me oggi nel sistema italiano cosa succede? Dato che il potere è gestito da persone tra i 60 e gli 80 anni, si viene a creare un problema drammatico, che l'Italia perde di competitività. Io questo lo vedo tutti i giorni. A 20 anni siamo il paese che è cresciuto rispetto all'OECD al 140esimo posto. Questo è imputabile solo all'età anagrafica? Cioè, è un mix di fattori. Un sistema autoreferenziante, cioè non c'è cambiamento, non c'è mobilità up or down, meritocratica. Ci sono dei giovani che sono già nati vecchi e delle persone più anziane. Faccio un esempio, io vivo a Londra, abbiamo il governatore della banca inglese, un canadese, l'amministratore legato della prima azienda di telefonia, un italiano, Vittorio Conao, l'amministratore della prima assicurazione, un francese che viene dall'Africa, l'amministratore legato dello stock exchange, ossia della borsa, un francese. Il primo amministratore di una banca, della più grande banca del paese, un portoghese. Ma scusi, ma lei quando in Italia si immagini le prime 7 grandi aziende le trova date a 7 stranieri con un'età, scusi, tra i 40 e i 55 anni. Quindi non è un problema solo di età, diciamo così, ma anche di apertura, di apertura del paese. Di competenza e di non parrocchialismo. Sul ragionamento mi è chiarissimo. Su questo però anche sistemi molto aperti, penso a quello anglosassone, l'essere così aperti non ha impedito errori gravissimi. Qui vengo alla responsabilità della finanza, perché lei lavora in finanza e ci mancherebbe, non c'è niente di male, ha anche dei 6 fondi, un hedge fund, ma insomma qui ci sono state delle colpe gravissime nei rischi che ha la finanza con strumenti anche derivati e quindi strutturati che aumentano perdite ma aumentano anche i guadagni. Si è accollata fino al 2008 in assenza di un regolatore. Adesso non possiamo rifare la storia della crisi, una crisi che poi però la finanza ha scaricato sull'economia, l'economia l'ha scaricata sul fronte occupazionale e quindi sui consumi, e quindi l'avvitamento a cui assistiamo adesso: meno consumi significano ancora meno impiegati e il circolo è quello vizioso, mentre la finanza è tornata a macinare in buona parte utili. Ora, non trova che anche il ricambio nelle grandi banche d'affari americane non è che sia stata questa cosa eccezionale? Abbiamo visto Royal Bank of Scotland ridistribuire bonus nonostante sia stata salvata sostanzialmente dallo Stato britannico, casi analoghi anche negli Stati Uniti. Cioè non è che da lì io non voglio difendere la politica, ci mancherebbe, però non è che dalla finanza arrivino tutti questi modelli di virtuosismo in cui chi ha sbagliato paga, se ne va a casa, restano i manager, i bonus ritornano e alla fin fine, passata la festa, gabbato lo santo, per usare un termine poco della City. Guarda, concordo pienamente con te, ossia c'è una grossa differenza tra cosiddetti quelli che si parano il posto e chi no. Le grandi banche sono le più parate, paraculate, come si suol dire. Perché? Sono quelle legate alla politica. E cosa succede? Nel momento in cui hanno effettuato perdite, queste hanno continuato a proteggere i propri dipendenti dicendo che erano l'asset operativo e quindi erano obbligate a pagarle. Questo, secondo noi, è uno scandalo. Oggi le aziende bancarie assicurative che sono state salvate con i soldi dei contribuenti devono abbassare gli stipendi, le remunerazioni, i costi fissi e ripagare gli aiuti di Stato. Basta. E secondo me qui chi non lo fa chiaramente non è in una una situazione completamente insostenibile. Due, quando si parla di finanza bisogna stare attenti. Cosa vuol dire finanza? Al mondo le uniche persone che investono sono gli uomini, però non abbiamo ancora i marziani nelle macchine. Quindi cosa succede? Parte della crisi 2007-2008 è che tutti volevano dei rendimenti stabili ma alti. Questa è una cosa che non funziona. Cioè, venivano anche promessi, diciamo. Sì, però la realtà cos'era? Che tutti volevano avere rendimenti al 7-8% e zero volatilità. Quindi si è creato tutto questo meccanismo matematico per dare questi rendimenti. Fondamentalmente c'era una bolla, ossia si davano prestiti a gente che non poteva ripagarti. E questo è nato negli Stati Uniti. Cosa è successo? Il casino da lì creato ha messo in evidenza chi aveva i soldi per salvarsi le proprie banche, gli Stati Uniti, dove l'economia continua ad andare bene, hanno trovato lo shale gas, sono sempre all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione, quindi cresce come economia, rispetto a chi, come noi, aveva già il portafoglio molto stretto, erano 20 anni che si indebitava per pagare pensioni, diritti a tutti quanti e a un certo punto, nel momento in cui hanno dovuto tirare fuori i soldi, è saltato il banco. Chiarissimo sul ragionamento sull'euro e appunto su che cosa ha portato all'attacco all'euro. Adesso c'è il traffico, poi torniamo invece però su un tema che riguarda sempre l'euro, perché io penso che vi sia stata, al di là delle mancanze dei singoli paesi, l'origine dell'attacco speculativo sull'euro, vi sia stata anche una incapacità politica dell'Unione Europea di dare risposte, prima sulla Grecia e poi su Cipro. Ultima parte dell'intervista con, ricordo, Davide Serra, fondatore del fondo Algebris, e insomma le cui opinioni anche politiche abbiamo ben ascoltato in maniera molto esplicita. Dicevo prima, dottor Serra, però al di là delle mancanze dei singoli paesi, le riforme non fatte in Italia, ma non solo in Italia, all'origine dell'attacco all'euro e della crisi europea degli ultimi 2 anni non c'è anche però l'incapacità politica dell'Unione Europea, diciamo a trazione tedesco oppure nord europea in generale, di dare una risposta coerente, unica, prima sulla Grecia e poi su Cipro? Cioè non abbiamo anche noi aperto praterie alla speculazione per via di questo tentennamento, resteranno o non resteranno nell'euro? Questo sicuramente, perché prima cosa, una politica cosa vuol dire? Che io mi devo fidare di te. Ma lei mi spiega come fa un governatore, un primo ministro tedesco, finlandese, olandese a fidarsi dell'Italia? Sa che l'Italia ha perso la credibilità quando col governo Berlusconi e Tremonti, nel momento di panico, il presidente Trichet della Banca Centrale ha iniziato a comprare titoli di Stato italiano, ha mandato una lettera al governo italiano dicendo firmatela, io ve li compro, non sono in grado di comprarli, sono disposto a rompere le regole, vi compro tempo, voi dovete firmare questa regola per i compiti che dovete fare. L'Italia cosa ha detto? Bene, vai avanti, continua a comprare, ha richiamato il Parlamento ad agosto e cosa hanno fatto? Hanno preso questa lettera e si sono messi a copiare. Dovevano fare una riforma di 80-90 miliardi, ne hanno fatti 40. Lì cosa è successo? La Banca Centrale ha detto cosa? Si è bloccata e da lì l'Italia ha completamente perso la credibilità. Quindi mi sembra di capire che sia più una responsabilità del singolo paese che non... Per ora di singoli paesi. Non della gestione... Della gestione europea. Non c'è nulla nell'euro. Cosa c'è? Non c'è nulla di sbagliato. Io parlavo della gestione, tanto che legislatore tedesca della crisi. No, che è un mio pallino. La gestione politica cosa fa sì che, dato che una volta che tutti abbiamo mischiato i nostri risparmi, cosa succede? Chi riesce a sopravvivere è chi continua a migliorare la competitività senza svalutare, ma perché si fa il fondello e studia di più. Ora cosa succede? Noi, che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto, come dico, la droga della svalutazione, ci sentivamo ricchi e tutti furbi. Ma piccolo problema, guardiamo all'export, al cambiamento di riforme. I tedeschi hanno preso le riforme negli anni 90 no, perché ci sia delle responsabilità. Con Schröder. Da noi si dicevano i ristoranti sono pieni, va tutto bene... c'è stata questa insensibilizzazione morale dove praticamente tutto è permesso, tutto è legale. Guardi, sulle riforme mancate dell'Italia abbiamo fatto intere puntate e siamo d'accordo. Io ritengo però che ci sia stata anche una cattiva gestione dei paesi del nord, Germania ma non solo, perché quando tu inizi a dire beh, l'euro, la Grecia potrebbe uscire dall'euro, forse sì, forse no, apri il territorio alla speculazione, così come nella gestione di Cipro, a mio avviso, uscisse con un prelievo forzoso sui conti correnti è stato anche un boomerang. Ma mi interessa un'ultima cosa. Posso dirti una cosa? Sono completamente in disaccordo, perché Luca, la Grecia è entrata nell'Unione Europea per una visione politica, c'era la guerra dei Balcani, l'Europa non aveva il coraggio di difendere un genocidio in Albania, si è fatta difendere dagli americani, la NATO è dovuta intervenire, è un genocidio a 80 km dalle coste italiane, e a un certo punto noi cosa abbiamo detto? Prendiamoci la Grecia, è tra la Turchia e il sud del Mediterraneo, se domani dovesse esserci instabilità politica abbiamo delle basi. Da qui la Grecia ha chiesto a Cipro di entrare per il tema greco-turco-cipriota, e a un certo punto Cipro cosa ha fatto? Invece di investire su turismo, servizi, ha detto bene, perché non diventiamo un offshore center per gli oligarchi russi? Così tu hai 700.000 persone, che di fatto è la metà di Milano, e hai depositi per 90 miliardi di euro. Sai cosa vuol dire? Che ce ne sono 60 di oligarchi russi, perché non sono il piccolo familiare, la piccola famiglia russa, sono quei 30-40 oligarchi che si sono privatizzati gli asset pubblici, no? È come se uno si fosse presa Telecom d'Italia, Eni e messi privati invece che pubblici, e questi si tengono i loro risparmi al di fuori dello Stato russo, perché giustamente non si fidano di se stessi. Ora, chiaramente, se tu come isola decidi di fare del riciclaggio internazionale di denaro, secondo me non chiaro, e poi fallisci nel caso in cui è successo, perché nel frattempo loro hanno continuato ad avere un deficit di bilancio del 10-15%, è chiaro che tu non puoi chiedere a un taxpayer tedesco di pagarti il miliardario russo, no? Non è accettabile. Vabbè, però sono un po' strana questa critica su Cipro come paradiso fiscale, visto che lei ha un fondo che ha sede alle Cayman. Scusi, però ecco, vede, questa scusi, è la sua ignoranza, perché io non ho un euro, un dollaro, né io né nessuno dei miei investitori. Questa è la differenza, che è parte dell'ignoranza italiana. Noi a Cayman usiamo il diritto, ossia vuol dire che ci sono dei documenti che fanno sì che tutti gli investitori al mondo investano nel loro paese, paghino tutte le tasse nei paesi di provenienza. Nessuno dei miei investitori, né Algebris né noi, abbiamo un solo euro a Cayman. Ora, il 90% dei nostri assets è domiciliato in Europa, ossia abbiamo fondi di diritto lussemburghese e irlandese. Le ricordo che il 90% dei fondi di diritto italiano ha struttura lussemburghese o irlandese, perché fa sì che gli investitori italiani non paghino la doppia tassazione. Quindi, vede, c'è una grossa differenza. Lei può usare il diritto del paese che vuole, perché sono semplicemente più veloci, meno costosi, rapidi e hanno una competenza. Ma i soldi li tiene nelle banche solide. Ora, se lei per questo, così come l'ignoranza italiana, chiama noi degli evasori, è pure ignoranza. No, parlavo dei paradisi fiscali. Ma è quello che non capisce, c'è una differenza. Cioè lei usa, lei usa Cayman per quello che è il diritto societario, diciamo Cayman. Io ho un investitore cinese, americano, italiano, spagnolo, tedesco, tutti hanno i loro, come si suol dire, problemi, ognuno ha codici fiscali diversi. Tutto questo pool di risparmio viene, investe globalmente e ognuno si paga le tasse nel paese di provenienza, così come deve fare, ma non mi paga la doppia tassazione, ossia se un italiano domani investe negli Stati Uniti è giusto che paghi le tasse o in Italia o negli Stati Uniti, non in entrambi i paesi. Se lei si immagini, la mia struttura è una piccola media azienda italiana, siamo in 15 cervelli e 10-15 persone di supporto. Ma lei si immagina a gestire, noi abbiamo investitori da 20-30 paesi, investo in 30-40, devo gestire una matrice 30 paesi. No, capito, lei lo fa, diciamo, per un motivo di, chiamiamolo così, semplificazione normativa. Esatto. Normativa. E mi dica una cosa a questo proposito però, perché lei ha detto, insomma, sostanzialmente no, non è stato un attacco, non è dovuto alla cattiva gestione tedesca o all'insicurezza, è dovuto al fatto che alcuni paesi del sud, nello specifico, non avevano fatto fatto la cicala, e a un certo momento, prima o poi, adesso io sintetizzo un po', questa cosa sarebbe dovuta emergere. Il caso si è chiamato Grecia, ma poteva essere un altro caso. Da questo punto di vista, allora, le vostre scelte di investimento, questo mi interessa come parte finale dell'intervista, dove si orientano? Cioè, in questo momento, se io dovessi dare 1000 euro o un euro a lei e chiederle dov'è che in questo momento in Europa, chiaramente può anche dirmi che in Europa lei resta disinvestito, ma dov'è che andate a puntare? Ottimo. Allora, il vero tema... Almeno una. No. domanda, tutte le domande sono corrette. È stato l'attacco sulle chema, scusi, che mi ha fatto e gli dico esattamente quello che penso. Due, diciamo anche che perché non era molto originale, visto che l'hanno massacrato i giornali nei miei discorsi. L'ignoranza, ho fatto tre comunicati stampa a un certo punto. Se uno, penale che continua ad andare avanti. Se uno non sa leggere, cioè, io come si suol dire, non c'è. Comunque, vero tema, molto semplice. Uno, negli ultimi 15 anni. Perché la gente non investe in Italia? Perché ha perso il 15% di competitività rispetto alla Germania. Quindi io capisco che l'Italia perda competitività rispetto all'India, all'Africa, all'Egitto, ai cinesi, alla Romania, ma non rispetto alla Germania. Quindi il problema strutturale è che l'Italia, se non riesce a stare al passo con la Germania, non ce la fa stare nell'euro. Due tipi di strategie. Per equity, quindi qua parliamo di azionario, noi oggi abbiamo 60% di rischio in Giappone, perché credo che Kuroda e Abe siano in un momento cruciale della storia degli ultimi 20-30 anni e siano pronti a provare un esperimento che secondo me avrà successo, di cercare di tirare il Giappone fuori dalla depressione. Dai 15 anni di stagnazione. Di stagnazione e depressione. Deflazione. Quindi voi avete il 60% in Giappone? Come equity. Sto parlando di azionari. Come azioni, sì, certo. Poi abbiamo un 10% in Europa ed è concentrato nei paesi del nord Europa e poi abbiamo un 30% negli Stati Uniti su cui siamo molto positivi perché la scoperta dello shale gas li rende indipendenti dal punto di vista energetico nel 2019 e questo sarà il più grande cambiamento geopolitico al mondo. Non avranno più bisogno degli idrocarburi arabi e russi. È un cambiamento epocale e noi siamo molto positivi. Lo shale gas è quello che si origina, secondo me, dal fracking. Si mette l'acqua a pressione in mezzo alle rocce e invece di fare il buco, questo cosa succede? Esce per pressione. E poi invece nel credito... Sì. Nel credito, cioè, quindi che vuol dire obbligazioni? Obbligazioni, bravo, esatto. E noi investiamo solo obbligazioni finanziarie, quindi banche, assicurazioni. Qui dove investiamo abbiamo 30% investito negli Stati Uniti, 30% in Inghilterra, 30% in Nord Europa e 10% in Sud Europa. Quindi secondo me oggi in Italia conviene essere investiti nella struttura di credito quindi ibrida, quindi debito che io definisco anche mezzanino, ossia sopra le azioni, e essere meno investito in equity, perché in equity cos'è? C'è il rischio che se la politica non mi trasforma il paese, me la rende competitiva, quindi se non si prende la squadra di calcio nazionale, è come se non avessimo i calciatori di 60 anni, bisogna metterli, portarli a 30-40 e fargli fare un bel campus estivo per ridargli un po' di energia. Dato che per ora non vedo c'è la volontà di fare questo cambiamento, preferisco stare in credito, perché oggi lì si viene pagati 6-7-8%, che è un ottimo rendimento, e secondo me il bello cos'è? E che se uno guarda l'Italia, l'Italia è un paese che ha molti più soldi di quanto il debito, quindi la ricchezza netta è positiva. Il problema è la crescita, quindi è giusto investire in credito, ma non in equity, perché per investire in azioni bisogna avere della crescita. Ecco, Davide Serra, ma se poi dovesse arrivare Renzi fra un anno, non so, a fare il Presidente del Consiglio, lei rientra in Italia? Ma guardi... In Italia ci vengo spesso a fare le vacanze con i miei bambini. No, guarda, ognuno ha proprio mestiere. Io faccio il mio mestiere, sono contento, appoggio Matteo pienamente, so quali sono i miei punti di forza e di debolezza e sicuramente fare il politico è il mio punto di debolezza. No, dico, ma resterà a vivere a Londra? Sì. Invece con un governo di Renzi, lei aumenterebbe il suo investimento? Certo, Renzi, se avesse il 40%, maggioranza piena Camera e Senato, comprerei Italia azionario tutti i giorni, perché è il momento secondo me del cambio generazionale. Beh, questo mi sembra, diciamo, una cosa abbastanza chiara nelle sue dichiarazioni. Grazie a Davide Serra, che è finanziere, appunto proprietario, CEO del fondo che ha creato, che poi appunto è un pacchetto di fondi che si chiama Algebris. Grazie. Beh, magari però mai dire mai, no? Magari si ritrasferisce in Italia, no? Il paese cambia così tanto, no? L'Italia mi è rimasta nel cuore, la testa ce l'ho anglosassone, il futuro si vedrà. Grazie ancora, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.